coglioni che mi sono fatto. Voglio raccontartelo proprio adesso. Tu mi dovrai stare a sentire, perché se no ti spacco la faccia.